Capitolo 5. La missione di Elishama. Il signor Clay invece non si vergognava affatto. Il progetto formulato nella nottata si era impadronito di lui. La faccenda era diventata una prova di forza tra lui e gli insorti. La notte seguente, mentre l'orologio suonava la mezzanotte, riprese il discorso e disse ad Elishama: «Credi che non possa più fare ciò che voglio?» Questa volta Elishama non contraddisse il signor Clay neppure con una parola e rispose: «No, no, signor Clay, credo che lei possa fare tutto ciò che vuole.» Il signor Clay disse: «Voglio che la storia che ti ho narrato ieri notte accada nella vita reale, a gente reale.» «Ci penserò io, signor Clay», disse Elishama. «Dove vuole che accada?» «Voglio che accada qui», disse il signor Clay e lanciò un'occhiata orgogliosa attorno a sé, alla sua grande camera da letto, riccamente arredata. «In casa mia. Voglio essere presente io stesso e assistervi con gli occhi miei. Voglio trovare il marinaio io stesso nella strada accanto al porto. Voglio cenare con lui io stesso nella mia sala da pranzo.» «Sì, signor Clay», disse Elisham, «e quando vuole che la storia accada a persone reali?» «Deve accadere presto», disse il signor Clay dopo una pausa. «Dovrà accadere presto. Stasera mi sento meglio, fra una settimana sarò abbastanza forte.» «Allora», disse Elishama, «tutto sarà pronto fra una settimana.» Dopo un poco il signor Clay disse: «Implicherà delle spese, non mi importa quali.» Quelle parole dettero ad Elishama una tale impressione di freddo e di solitudine da parte del vecchio che fu come se fossero state pronunciate dalla tomba. Ma siccome lui stesso si sentiva a suo agio nella tomba, impiegato e principale, si trovarono in quel momento molto vicini. «Sì», disse, «ci costerà del denaro, perché ricorderà che nella storia entra in gioco una giovane donna.» «Sì, una donna», disse il signor Clay. «Il mondo è pieno di donne. Una donna giovane si può sempre comprarla, e sarà la cosa che costerà meno in tutta la storia.» «No, signor Clay», disse Elishama, «non sarà la cosa che costerà meno in tutta la storia, perché se le porterò una donna della città, il marinaio la conoscerà per quello che è e perderà fiducia nella storia.» Il signor Clay brontolò un poco. «E non sarò in grado di portarle una fanciulla», disse Elishama. «Ti pago per questo lavoro», disse il signor Clay. «Trovami una donna, fa parte del tuo compito.» «Dovrò pensarci sopra», disse Elishama, ma già ci aveva pensato mentre stavano parlando. Elishama, come già si è detto, era ben versato in computisteria a partita doppia. Vedeva il signor Clay con gli occhi del mondo. E agli occhi del mondo, se il mondo avesse saputo di quel progetto, il vecchio era indubbiamente pazzo. Ma allo stesso tempo vedeva il signor Clay coi propri occhi, e ai propri occhi il principale, come i suoi colleghi nel commercio del tè e in altri commerci, era stato sempre pazzo. E poi non era ben sicuro che per un uomo con un piede nella fossa inseguire una storia non fosse un'impresa più sicura che inseguire un guadagno. Elishama parteggiava sempre con l'individuo contro il mondo, dato che, per quanto pazzo potesse essere l'individuo, il mondo in generale soffriva certamente di un'idiozia ancora più perfida e inguaribile. Mentre anche questa volta si allontanava da casa del signor Clay, si rese conto che da quel momento era diventato indispensabile al suo padrone e avrebbe potuto ottenere da lui tutto quanto voleva. Non intendeva approfittare della circostanza, ma l'idea gli garbava. Nell'ufficio del signor Clay c'era un giovane contabile che si chiamava Charlie Simpson. Era un giovanotto ambizioso e aveva deciso di diventare a suo tempo milionario e nababbo quanto lo stesso signor Clay. Quel giovane, grosso e rubizzo, si considerava l'unico amico di Elishama. Lo trattava con patrocinante giovialità e lo aveva recentemente onorato della propria confidenza. Charlie aveva in città un amante che si chiamava Virginie. Ella era, a quanto gli diceva al suo protetto, una francese di ottima famiglia, che si era rovinata a causa del proprio temperamento amoroso e ora viveva unicamente per la passione. Virginie voleva uno scialle francese e suo amante intendeva offrirglielo in regalo, ma aveva paura di andare in un negozio a comprarglielo perché qualcuno avrebbe potuto vedercelo e riferirlo al suo padrone in Inghilterra. Se Elisham avesse portato una collezione di scialli a casa di Virginie, Charlie gli avrebbe dimostrato la propria riconoscenza presentandolo alla signora stessa. Gli amanti avevano avuto una lite immediatamente prima che Lisciama arrivasse con gli scialli, ma la vista di essi placò un poco le ire di Virginie. Si drappeggiò uno scialle dopo l'altro attorno alla bella figura, davanti allo specchio, come se gli uomini non fossero stati nella stanza. E si tirò su perfino le sottane per scoprirsi le ginocchia e fare un paio di pas de basque. Voltando il capo all'indietro, disse all'amante che ora poteva certamente capire da solo che la sua vera vocazione era il teatro. Se avesse potuto trovare il denaro che occorreva, la cosa più saggia da fare sarebbe stata quella di tornare in Francia. Laggiù esistevano ancora la commedia, il dramma e la tragedia, e le grandi attrici erano gli idoli della nazione. Elishama aveva poca dimestichezza con le parole commedia, dramma o tragedia, ma ebbe per istinto la sensazione che vi fosse un nesso tra quei fenomeni e la storia del signor Clay. Il giorno dopo il suo ultimo colloquio col signor Clay si diresse verso la casa di Virginie. Elishama aveva, nella sua natura, un tratto che pochissime persone avrebbero potuto pensare di trovarci. Provava una profonda, innata simpatia o compassione verso tutte le donne di questo mondo e soprattutto verso le giovani. Sebbene, come già abbiamo detto, egli non volesse un cavallo per sé, era capace di valutare al centesimo il prezzo di qualsiasi cavallo gli fosse mostrato. E sebbene egli non volesse affatto una donna per sé, sapeva guardare una donna con gli occhi di altri giovani e stabilirne con precisione il valore. Soltanto in quest'ultimo caso egli considerava gli occhi degli altri giovani, miopi o ciechi, il prezzo errato e l'articolo in se stesso tristemente sottovalutato o svilito. Egli provava misteriosamente la stessa simpatia e compassione per gli uccelli. Tutti i quadrupedi lo lasciavano indifferente e non gli piacevano i cavalli, nonostante se ne intendesse e li capisse tanto bene, ma era capace di allungare la strada da casa all'ufficio per passare davanti ai negozi cinesi di uccelli e fermarsi a lungo davanti a quelle gabbie gremite, e conosceva uno per uno gli uccelli che vi stavano dentro e ne seguiva, preoccupato, la sorte. Andando verso la casa di Virginie, provava forse una duplice simpatia. Era infatti una giovane donna che gli ricordava un uccello. Mentre col pensiero la paragonava alle altre giovani donne di Canton, ella assumeva l'aspetto di un fagiano dorato di un pavone in un pollaio. Era più grande delle sorelle, più nobile, più pomposa di portamento e di piume, e si pavoneggiava un po' solitaria tra gli animali domestici più piccoli. Quando si erano incontrati era stata un po' sbigottita e un po' scontrosa, come un fagiano dorato nella stagione della muta, ma era pur sempre un fagiano dorato. Capitolo 6. L'eroina della storia. Virginie abitava in una pulita casetta cinese con un giardinetto e le persiane verdi alle finestre. La vecchia cinese che ne era la proprietaria la teneva in ordine e cucinava per la sua inquilina. Oggi era fuori. Elishama trovò la porta aperta ed entrò direttamente. Virginie faceva un solitario sul tavolino accanto alla finestra. Alzò gli occhi e disse: «Oh, Dio, è lei? Che cosa mi porta? Degli scialli?» «No, signorina Virginie, oggi non le porto proprio nulla», egli rispose. «E allora che cosa viene a fare?» gli chiese. «Si siede e mi tenga compagnia in nome di Dio, ora che è qui». A quell'invito si sedette. Virginie, nonostante il suo passato avventuroso, era ancora giovane e fresca e aveva in sé una qualità floreale, come se ci fosse una grande rosa in un vaso pieno d'acqua in mezzo alla stanza. Indossava una vestaglia di mussola bianca guarnita di gale e con lo strascico, ma non s'era ancora puntata la ricca chioma castana che le fluiva sulle spalle fino alla sciarpetta rossa che le stringeva la vita. Il dorato sole pomeridiano filtrava attraverso le persiane e le ricadeva in grembo. Andò avanti con il solitario, ma intanto parlava. «Sta sempre col vecchio demonio?» chiese. Elishama disse: «È malato e non può uscire». «Bene», disse Virginie. «Morirà?» «No, signorina Virginie», disse Elishama. «È anche abbastanza forte da far nuovi progetti. Col suo permesso, ora gliene racconto uno. Comincerò dal principio». «Finché è troppo malato per uscire, posso sentir parlare di lui», disse Virginie. «Il signor Clay», disse Elishama, «ha udito raccontare una storia. 50 anni fa, a bordo, una notte al largo del Capo, l'ha udita raccontare. Ora che è malato e la notte non può dormire, ha riflettuto su quella storia. Detesta le finzioni, detesta le profezie, ama i fatti. E ha stabilito che quella storia deve accadere nella vita reale, a persone reali. Sono al suo servizio da 7 anni. Chi doveva incaricare se non me della realizzazione del suo desiderio? È l'uomo più ricco di Canton e deve avere ciò che vuole, signorina Virginie. Ora le racconto la storia. C'era una volta un marinaio, cominciò a dire, che sbarcò dalla sua nave nel porto di una grande città. Mentre camminava da solo in una strada vicino al porto, una carrozza con una bella pariglia di cavalli bai si fermò dove era lui e un vecchio gentiluomo smontò dalla carrozza e gli disse: «Lei è un bel marinaio, vuole guadagnare 5 guinee stasera?» E quando il marinaio disse di sì, il vecchio gentiluomo lo condusse in carrozza a casa sua e gli dette da mangiare e da bere. Poi, signorina Virginie, gli disse: «Io sono un mercante favolosamente ricco, come avrà potuto vedere da sé, ma sono solo al mondo. Le persone che, morto io, dovranno ereditare il mio patrimonio sono stupide e non fanno che disturbarmi e infastidirmi. Ho preso per me una giovane moglie, ma...» A questo punto Virginie interruppe di netto il racconto di Elishama. «Conosco questa storia», disse. «È accaduta a Singapore a un capitano mercantile amico mio. L'ha raccontata anche a lei?» «No, signorina Virginie», disse Elishama. «Non me l'ha raccontata lui, ma altri marinai. È una storia che vive sulle navi. Tutti i marinai l'hanno udita e tutti i marinai l'hanno raccontata. Sarebbe forse rimasta sul mare e non sarebbe mai sbarcata se non ci fosse stata l'insonnia del signor Clay. Ora lui la farà accadere qua a Canton, perché un marinaio al mondo sia in grado di narrarla dal principio alla fine, proprio come dal principio alla fine sarà accaduta a lui». «Era certo che alla fine sarebbe impazzito per i suoi peccati», disse Virginie. «Se ora vuol recitare una commedia col demonio, è una faccenda che riguarda soltanto loro due». «Sì, una commedia», disse Lishama. «Avevo dimenticato la parola. C'è chi recita nelle commedie e ci fa molto danaro e diventa l'idolo delle nazioni, ma ci sono 3 personaggi nella commedia del signor Clay. Il vecchio gentiluomo lo farà lui stesso. Il giovane marinaio lo troverà lui stesso lungo la strada che è presso al porto, laddove i marinai sbarcano dalle loro navi. Ma il capitano mercantile inglese che le ha raccontato questa storia le avrà detto, signorina Virginie, che oltre a quei due c'è anche una dama, bella e giovane. Sto ora cercando quella dama, bella e giovane, per conto del signor Clay. Se vorrà entrare nella storia e concluderla per lui, il signor Clay la compenserà con 100 guinee». Virginie, che era seduta, voltò interamente il busto giovane e rigoglioso verso Elishama. Incrociò le braccia sul petto e gli rise in faccia. «Che vuol dire tutto questo?» chiese. «È una commedia, signorina Virginie», disse. «Un sogno, una tragedia, è una storia». «Il vecchio ha strane idee di una commedia», disse Virginie. «In una commedia gli attori fingono di fare certe azioni, di uccidersi l'uno con l'altro, di morire o di andare a letto coi loro amanti. Ma in realtà non fanno nessuna di queste cose. Il suo padrone è proprio come Nerone, sa? L'imperatore romano, che per divertirsi faceva divorare la gente dai leoni, ma da allora non si è più fatto, ed è passato molto tempo». «Era molto ricco l'imperatore Nerone?» chiese Lishama. «Oh sì, possedeva il mondo intero», disse Virginie. «E le sue commedie erano belle?» chiese ancora. «A lui piacevano, suppongo», disse Virginie. «Ma oggi chi andrebbe a recitargliele? Se fosse padrone del mondo intero, troverebbe chi gliele recita», rispose lui. Virginie guardò Elishama con durezza. I suoi occhi scuri brillavano. «Suppongo che nessuno riesca ad insultare lei, neppure se ci prova con tutta la sua forza». Elishama rifletté su quell'osservazione. «No», disse, «non ci riuscirebbe. Perché dovrei permetterglielo?» «E se le dicessi di uscire da questa casa?» ella disse. «Se ne andrebbe?» «Sì, me ne andrei», egli disse, «casa sua. Ma subito dopo lei rifletterebbe sulle cose per cui mi ha cacciato via. La gente pensa ad essere stata insultata quando si sente riferire i propri pensieri, ma perché mai non è possibile che i loro pensieri valgano anche quando sono espressi dagli altri?» Virginie seguitò a guardarlo. Prima, quello stesso giorno, era stata così furibonda con la propria sorte che aveva pensato di buttarsi in mare. Il solitario l'aveva un po' calmata. Ora sentiva all'improvviso che Lisciama e lei erano soli in casa e che egli non aveva in animo di ripetere ad altri la loro conversazione. In quelle circostanze avrebbe potuto riprendere il discorso. Quanto la paga il signor Clay per venire qua a farmi questa proposta? Chiese. 30 pièces d'argent, n'est-ce pas? C'est le prix? Quando lasciava che la sua mente si muovesse nelle alte sfere, Virginie pensava e si esprimeva in francese. E Lisciama, che parlava bene francese, non riconobbe la citazione, ma si figurò che ella lo schernisse per il misero guadagno che ricavava al servizio del signor Clay. No, disse, non mi paga per questo. Io sono impiegato dal signor Clay. Non posso lavorare che per lui. Ma lei, signorina Virginie, può andare dove vuole. Sì, suppongo di sì, disse Virginie. Sì, suppone di sì, disse Lisciam, ed è stata capace di andare dove voleva tutta la vita. Ed è venuta qui, signorina Virginie, in questa casa. Virginie arrossì profondamente per la rabbia, ma allo stesso tempo sentì ancora una volta, e più profondamente di prima, che loro due erano soli in casa e che il resto del mondo era chiuso fuori. Capitolo 7. Virginie. Il padre di Virginie era stato mercante a Canton. Il motto della sua vita, inciso sul sigillo del suo anello, era stato «Pourquoi pas?». Perché no? Per tutti i 20 anni di Cina, il suo cuore era rimasto in Francia e le grandi cose che vi erano accadute gliel'avevano colmato e commosso. Quando egli morì, Virginie aveva 12 anni. Era la figlia maggiore e la prediletta. Da piccola era stata bella come un angelo, e il padre orgoglioso si compiaceva a condurla in giro e a mostrarla ai suoi amici, sicché in pochi anni l'aveva veduto e imparato molto. Aveva attitudine alla mimica. A casa dava graziosi piccoli spettacoli che imitavano scene alle quali aveva assistito e ripetevano osservazioni e gaie canzoni che l'aveva udito. Sua madre, proveniente da una vecchia famiglia di marinai bretoni, sapeva bene che una moglie deve rassegnarsi al temperamento esuberante del suo uomo, ma talvolta non poteva fare a meno di rimproverarlo perché viziava la sua bella figliola. Come risposta riceveva soltanto un bacio e il ridente commento: «Ah, Virginie est fine, elle s'y comprend, en ironie». Da giovane, quel gentiluomo bello e conquistatore aveva viaggiato molto. In Spagna aveva avuto degli affari e un rapporto amichevole con una grandissima dama, la contessa de Montijo. Quando più tardi in Cina aveva saputo che la figlia di quella dama aveva sposato l'imperatore Napoleone III ed era diventata imperatrice dei francesi, si era sentito lieto e orgoglioso, come se lui stesso avesse combinato quel pateracchio. Con lui Virginie aveva vissuto per molti anni nel gran mondo della corte francese, nei vasti e luminosi saloni da ballo delle Tuileries, tra ricevimenti di sovrani stranieri, cabale di corte, amori romantici, duelli e valzer di Strauss. Dopo la morte del padre, durante lunghi anni di miserie e di calamità, mentre perdeva l'angelica grazia dell'infanzia e cresceva troppo, Virginie s'era rivolta per consolazione a quello stesso mondo radioso. Seguitava a salire scaloni di marmo illuminati da 1000 candele, a sua volta tutta scintillante di brillanti, per andare a ballare con principi e duchi, e i compagni della solitaria e monotona esistenza trascorsa in lugubri dimore si meravigliavano per il coraggio della ragazza. Alla fine, però, le stesse Tuileries erano scolorite e svanite attorno a lei. Anche quando aveva tentato di innestare dei principi morali nella giovane mente di sua figlia, il padre li aveva illustrati con aneddoti della corte imperiale. Uno di essi era rimasto profondamente impresso nel cuore della piccola. La bellissima Mademoiselle de Montijo aveva informato l'imperatore Napoleone che l'unica strada che conduceva alla sua camera da letto attraversava la cattedrale di Notre-Dame. Virginie aveva dimestichezza con la cattedrale di Notre-Dame, rappresentata da una grande stampa appesa nel salotto dei suoi genitori. Si era figurata una camera da letto di dimensioni corrispondenti e in mezzo ad essa la bella Mademoiselle Virginie coperta di trine. Quella visione le aveva spesso scaldato e rallegrato il cuore. Ma, ahimè, la strada che conduceva alla sua camera da letto non attraversò la cattedrale di Notre-Dame e non attraversò neppure la grigia chiesetta francese di Canton. Negli ultimi tempi attraversava senza tante deviazioni gli uffici e le banche della città. Per Per questo motivo Virginie disprezzava gli uomini che l'avevano percorsa. Nella sua carriera di delusioni, ella aveva avuto un solo trionfo, ma, salvo lei stessa, nessuno lo conosceva. Il suo primo amante era stato un capitano mercantile inglese che l'aveva fatta scappare via con lui fino al Giappone, appena aperto al commercio internazionale. Proprio la prima notte trascorsa dalla coppia in Giappone c'era stato un terremoto. Attorno al loro alberghetto le case si erano spaccate ed erano crollate e più di 100 persone erano perite. Quella notte Virginia aveva provato qualcosa che andava oltre il terrore. Aveva vissuto il gran momento della sua vita. Il tonante ruggito del cielo era diretto personalmente contro di lei. La terra si scuoteva e tremava alla perdita della sua innocenza. I potenti cavalloni del mare gemevano sulla caduta di Virginie. Soltanto frivoli esseri umani, e il suo amante con loro, ignorarono in quell'ora la legge della causa e dell'effetto e non seppero rendersi conto di quali conseguenze rovinose sarebbe stata causa quella caduta. Virginie era, per natura, molto buona d'animo. Nella sua presente triste situazione, dopo essere definitivamente scesa dalle Tuilerie, gli amanti le sarebbero piaciuti di più se l'avessero lasciata libera di amarli a modo suo, come povera gente pietosa che anela alla comprensione. Avrebbe potuto rassegnarsi al suo amante attuale, l'amico di Elishama, se fosse riuscita a fargli intendere il loro legame come lo intendeva lei, un tentativo fatto da due persone sole per trarre, in modo borghese e senza pretese, e per mezzo di un po' di reciproca gentilezza, il meglio da un triste mondo. Ma Charlie era un giovane ambizioso, il quale amava vedere se stesso come un uomo alla moda e la sua amante come una grande mimonda. La sua amante, che conosceva il vero significato di quella parola, era messa a dura prova nella loro vita quotidiana da quella sua vanità e ciò provocava la maggior parte dei loro litigi. Ora stava ad ascoltare l'Isciama a braccia conserte e coi limpidi occhi mezzi chiusi, come un gatto che osserva un topo. Se in quel momento egli avesse voluto scappar via, ella non glielo avrebbe permesso. Il signor Clay, disse il giovanotto, è disposto a pagare 100 ghinee se, in una notte stabilita da lui, lei verrà a casa sua. Ecco, signorina Virginie. A casa sua? Gridò Virginie e alzò gli occhi sbalordita. Sì, egli disse, a casa sua. E questo, signorina Virginie? Ma Virginie si alzò con tanta violenza da rovesciare la sedia e schiaffeggiò Elishama con tutta la sua forza. Gesù! Gridò. A casa sua! Lo sa lei che casa è quella? È la casa di mio padre! Ci ho giocato quando ero piccola! Aveva un anello al dito e schiaffeggiandolo aveva graffiato il viso di Elishama. Egli si asciugò una goccia di sangue e si guardò le dita. La vista del sangue versato dalla sua mano fece infuriare Virginie oltre ogni dire. Allora cominciò ad andare su e giù per la stanza e la sua veste bianca spazzava il pavimento. Ed Elishama ebbe un'idea del dramma. Lei si sedette su una sedia, poi si alzò e si sedette su un'altra. Capitolo 8. Virginie ed Elishama. Quella casa, disse infine. Era l'unica cosa che mi fosse rimasta del tempo in cui ero una ragazza ricca, bella e innocente. Ogni volta che poi ci sono passata davanti, ho sognato il modo in cui ci sarei rientrata. Il fiato le si mozzava mentre parlava e il viso le si copriva di chiazze bianche. Così dovrà entrarci adesso, signorina Virginie, disse Lisciama. La giovane donna della storia del signor Clay è proprio così, signorina Virginie, ricca, bella e innocente. Virginie lo fissò, come se non lo vedesse affatto, come se stesse fissando una bambola. Dio, disse lei, Dio mio, sì. Virginie è fine, elle si comprend en ironie. Guardò lontano, poi lo fissò di nuovo. Ora può sentirlo anche lei, soggiunse, quel che mi diceva mio padre. Per un attimo si turò gli orecchi con le dita, poi lasciò cadere le mani in grembo e si voltò dritta verso di lui. Ora può saperlo anche lei, gridò. Può saperlo anche lei. Mio padre ed io parlavamo in quella casa di cose splendide, nobili, grandiose. L'imperatrice Eugenia di Francia portava le scarpette di raso bianco una volta sola. Poi le regalava alle scuole dei conventi perché le bambine potessero metterle per la prima comunione. Anch'io dovevo fare lo stesso perché papà era orgoglioso dei miei piedini. Sollevò lievemente la veste e si guardò i piedi che calzavano un paio di vecchie ciabatte. L'imperatrice di Francia aveva fatto per sé una carriera straordinaria che non ha esempio altrove e io avrei dovuto fare altrettanto. E la strada che conduceva alla sua camera da letto, ora può saperlo anche lei, ora può saperlo anche lei, la strada che conduceva alla sua camera da letto, attraversava la cattedrale di Notre Dame. Virginie, soggiunse lentamente, Virginie, si comprend, Anironi. Ci fu un lungo silenzio. Senta, signorina Virginie, disse l'isciama, sugli scialli, ella ripeté stupefatta. Sì, sugli scialli che le ho portato, proseguì lui, c'era un disegno. Lei disse al suo amico, al signor Simpson, che preferiva un disegno a un altro, ma su tutti c'era lo stesso disegno. Virginia aveva gusto per i disegni. Una delle cose per cui disprezzava gli inglesi era che, secondo lei, essi non avevano mai un disegno nella vita. Aggrottò un poco la fronte, ma lasciò che l'isciama proseguisse. Eppure, egli proseguì, le linee di un disegno corrono talvolta in senso inverso a quello che si crede, come in uno specchio. Come in uno specchio, ella ripeté lentamente. Sì, egli disse, ma tuttavia il disegno c'è. Questa volta ella lo guardò in silenzio. Lei mi ha detto, spiegò, che l'imperatore di Roma era padrone del mondo, e così il signor Clay è padrone di Canton e di tutti quelli che stanno a Canton, ma non è padrone mio, pensava. Il signor Clay e altri ricchi mercanti come lui la posseggono. Se lei guarda nelle strade, vede centinaia di persone che vanno a nord e a sud, a oriente e a occidente. Quanta di quella gente andrebbe qua o là se nessuno le avesse detto di andarci? E quelli che glielo hanno detto, signorina Virginie, sono il signor Clay e altri ricchi mercanti come lui. Adesso le ha detto di andare a casa sua e lei deve andarci. No, disse Virginie. E l'isciama aspettò un momento, ma siccome Virginie non diceva altro, proseguì. Quello che conta, disse, è quello che il signor Clay dice alla gente di fare. Poco fa lei mi ha colpito. Ora sta tremando a causa di ciò che lui le ha detto di fare. In paragone, ha molto poca importanza che lei ci vada o no. È stato lei a dirmelo, ella osservò. Sì, perché me l'ha ordinato lui, disse l'isciama. Ci fu un'altra pausa. Oh, lasci che i capelli le ricadano sul viso, signorina Virginie, egli disse. Se si deve stare al buio, bisogna stare nel proprio buio. Io posso aspettare finché vuole. Virginie, nell'atto stesso di rifiutarsi di fare ciò che gliele consigliava, scrollava furiosamente il capo. Correndo qua e là per la stanza, le era caduto il nastro che le legava i capelli e ora essi le svolazzavano attorno come una nuvola scura e quando lasciò ricadere il capo, le ruzzolarono davanti e le nascosero il viso. Si sedette per un poco, immobile, in quel chiaroscuro. La strada di cui parlava lei, disse l'isciama, quella che attraversava la cattedrale di Notre-Dame, è in quel disegno, ma in quel disegno essa corre in senso inverso. Da dietro al velo di capelli, Virginie chiese: In senso inverso? Sì, disse l'isciama, in senso inverso, in quel disegno la via corre in senso inverso. E procede. La strana dolcezza della sua voce colpì l'orecchio di Virginie contro la sua stessa volontà. Lei farà carriera per se stessa, signorina Virginie, disse l'isciama, proprio come l'imperatrice di Francia. Ma la sua strada corre in senso inverso. E perché no, signorina Virginie? Virginie, dopo un attimo, chiese: Lei conosceva mio padre? No, non lo conoscevo. Disse l'isciama. Allora chiese di nuovo, come sapeva che il disegno di cui sta parlando corre nella mia famiglia e che in questo caso si chiama tradizione? E l'isciama non le rispose, perché non conosceva il significato della parola. Dopo un altro minuto ella disse molto lentamente: E pour quoi pas? Buttò indietro i capelli, alzò il capo. Rimase a sedere dietro alla tavola come una venditrice dietro al banco. Ad Elisham apparve che il viso di lei fosse più largo e piatto di prima, come se fosse stato sotto un rullo compressore. «Dica da parte mia al signor Clay», ella disse, «che non verrò per il prezzo che mi ha offerto, ma che verrò per 300 guinee. Ecco, se vuole il disegno. Oppure, in termini che il signor Clay capirà, ecco un vecchio debito». «È la sua ultima parola, signorina Virginie?» chiese lui. «Sì», disse Virginie. «Proprio l'ultima parola?» chiese nuovamente. «Sì», ella disse. «Allora, se è così», disse, «le darò subito 300 guinee». Prese il portafoglio e posò le banconote sulla tavola. «Vuole una ricevuta?» ella chiese. «No», rispose lui, pensando che l'affare sarebbe stato più sicuro senza ricevuta. Virginie lasciò cadere le banconote e le carte da gioco tutte insieme nel cassetto della tavola, perché per oggi non avrebbe più fatto solitari. «Come può sapere?» disse, e guardò Elisciama in viso, «che non darò fuoco alla casa al mattino, prima di tornarne via, e non ci brucerò dentro il suo padrone». Elisciama era stato sul punto di andarsene, ora s'era fermato. «Le dirò una cosa prima di andar via», disse lui. «Questa storia sarà la fine del signor Clay». «Crede che morirà covando astio?» chiese Virginie. «No», rispose lui, «no, questo non lo so, ma in un modo o nell'altro sarà la sua fine. Nessuno al mondo, neppure l'uomo più ricco che ci sia, può prendere una storia che il popolo ha inventato e narrato e farla cadere». «Come lo sa lei?» ella chiese. Egli aspettò un poco. «Beh, se deve sommare una colonna di cifre», egli disse lentamente, come per chiarirle bene la faccenda, «comincia da destra con la cifra più bassa e va verso sinistra, alle decine, alle centinaia, alle migliaia, alle decine di migliaia. Ma se a un tizio saltasse in mente di sommare la colonna dall'altro lato, cioè da sinistra, che scoprirebbe? Scoprirebbe che il suo totale risulta errato e che i suoi conti non valgono nulla. Il totale del signor Clay sarebbe errato e i suoi libri non varrebbero nulla. E che cosa farebbe il signor Clay senza i suoi libri? Per me non sarà una buona cosa, signorina Virginie, perché sono alle sue dipendenze da 7 anni e ora perderò il posto, ma non c'è scampo». Era la prima volta che Lisciama parlava confidenzialmente del suo padrone a una terza persona. «E ora dove va?» gli chiese Virginie. «Io?» chiese lui, stupito che qualcuno potesse interessarsi ai suoi movimenti. «Ora vado a casa, nella mia stanza». «Chissà», disse lei con una specie di sgomento nella voce, «dove sarà e come sarà? Aveva una casa da bambino?» «No», egli disse. «Aveva fratelli e sorelle?» chiese ancora. «No», egli disse. «No, è quel che pensavo», disse Virginie, «perché ora vedo chi è lei. Quando è entrato ho pensato che fosse un sorcio, uscito da uno dei magazzini del signor Clay. Mais toi, tu es le juif errant. Tu sei l'ebreo errante». Elisciama le lanciò uno sguardo rapido e profondo, con gli occhi velati, e si allontanò.